è una gioia unica, una gioia, devo dire, se faccio il paragone con la prima volta, con la prima promozione, questa è una cosa anche maggiore, perché è una promozione che arriva dopo 3 anni di grande fatica, dopo 3 anni in cui abbiamo provato a salire in Serie A con difficoltà. Credo che molti si aspettassero che saremmo arrivati fin qua, agli ottavi, superando un turno difficile come i sedicesimi contro l'Atletico di Bilbao, per di più dovendo vincere al San Mamés. Ad Urbano Cairo, che è spesso graditissimo ospite a questi microfoni, non vorrei rubare molto tempo perché immagino sarà impegnato in torte, candeline, eccetera, per i 10 anni di presidenza. Terzo presidente più duraturo del Torino dopo due miti come Orfeo Pianelli e Ferruccio Novo, 19 e 14 anni. Buongiorno presidente, complimenti e auguri. Buongiorno, grazie degli auguri. Mi sembrava di sentire una voce che riconoscevo, sì, che conoscevo prima. Sì, E non era quella di Pardo, non era quella di Pardo. No, buongiorno presidente, auguri. Ciao Pierluigi, ciao. Senta, le hanno chiesto quasi tutto oggi, ho sentito in televisione, in interviste su tutti i giornali, c'è qualcosa che non ha ancora detto di questi 10 anni di presidenza? Ma adesso diciamo che in questi giorni mi sono veramente, abbiamo ripercorso tutto il periodo in maniera molto approfondita, quindi dire una cosa inedita mi riesce difficile. Adesso le faccio fare una domanda da Pardo, attento. Ma insomma io volevo capire, sono stati 10 anni brillantissimi, questo tra l'altro è un momento in cui veramente c'è una quadratura completa del cerchio anche della cronaca, con Torino che ha fatto un grande mercato in testa alla classifica. Le chiedo qual è stato, se c'è stato un momento, qualche momento difficile, c'è stato, ho letto anche le interviste oggi, se il momento più complicato qual è stato? Ma sicuramente diciamo che è stato nel 2011, il nostro secondo anno di B, quando dopo un primo anno in cui partimmo male, subito dopo la retrocessione partimmo male, ma recuperammo benissimo arrivando fino alla finalissima col Brescia, che purtroppo perdemmo, ma facendo un bellissimo girone di ritorno con Colantuono allenatore, 41 punti, bellissimo. Poi l'anno dopo invece purtroppo fu un'annata difficile, un'annata complicata, molta contestazione, molte difficoltà e purtroppo non arrivammo neanche ai play-off, quindi quello fu il momento più basso. Poi però da lì siamo ripartiti bene, io avevo con me già il mio direttore sportivo Petrachi, che è molto in gamba, il quale mi ha suggerito di prendere Ventura, ci siamo incontrati, conosciuti e ci siamo piaciuti, e quindi da lì è partito diciamo il nuovo Torino e abbiamo fatto bene, abbiamo vinto il primo vinto, insomma siamo arrivati secondi nel a pari merito col Pescara nel campionato di B, passando però direttamente in Serie A e poi tra i campionati di A diciamo in costante crescendo, quindi anche con l'anno scorso con l'Europa League buonissima, quindi molto bene, insomma direi che e poi con delle campagne acquisti mirate prevalentemente sui giovani da affiancare e da inserire in una squadra con già alcuni elementi di esperienza molto forti come Boru per esempio, come Moretti, come Vives, come Gazzi, come Quagliarella che abbiamo preso lo scorso anno e che sta facendo benissimo, quindi un bel mix di esperienza, di giocatori però con ancora voglia di fare bene e di gioventù con tanti giovani di prospettiva che però hanno già fatto delle buone cose. Noi abbiamo preso quest'anno l'ossatura dell'Under 21 dello scorso anno, Belotti, Baselli, Tappacosta e la metà di Benassi che abbiamo preso da lì alle buste, e questi sono 4 giocatori che insomma sui quali noi ovviamente puntiamo e sono di buonissima qualità, peraltro 2, Belotti e Tappacosta perché ha avuto una contrattura e Belotti perché è appena arrivato, non ha ancora neanche giocato, sì. Quindi se faranno come noi speriamo, come sta facendo Baselli che ha fatto benissimo, o Benassi che conosciamo già, insomma credo che questo potrà dare un ulteriore apporto positivo al Toro. Intanto primi in classifica, per fortuna quel giorno diede retta alla mamma che le consigliò a prendere il Torino. Sì, mia mamma fu una persona che mi dette una grandissima spinta a prendere il Toro, perché lei era una tifosa incredibile del Toro, del grande Torino, e mi dispiace tanto che abbia visto, no, sono contento che abbia visto il Toro ritornare in Serie A nel 2012, purtroppo poi lei è mancata il 29 di settembre del 12 e quindi non ha visto questi tre anni belli e in particolare gli ultimi due con le vittorie, con l'Europa, con il derby vinto, con San Mamés, con tante cose bellissime che avrebbero fatto impazzire. Marco Perinazzo, del Sole 24 Ore, cosa vuoi chiedere al Presidente Caro? Buongiorno intanto Presidente, tanti complimenti insomma per il percorso fatto fin qui, mi sembra che i conti del Torino anche dal punto di vista economico stiano tornando sotto tutti i punti di vista, e la mia curiosità è quale ruolo vede per il Torino insomma all'interno del movimento calcistico italiano, insomma lei ha già parlato dei giovani, il Torino ha un grande blasone, una grande storia insomma, però che ruolo si immagina da qui ai prossimi 10 anni? Ma diciamo che il Toro deve continuare la strada intrapresa in questi ultimi anni, cercando di fare un bel gioco, di investire molto, come abbiamo già fatto e faremo ancora di più nel settore giovanile, perché è da lì che puoi far crescere dei giovani talenti, si spera, utili anche alla tua squadra, e quindi il settore giovanile è utile e importante. Certo piace di vincere lo scudetto come si è fatto quest'anno, quindi essere campione d'Italia per la primavera, però poi quello che conta molto anche, e che io dico ai miei responsabili del settore giovanile, a Comi, a Bava, a Moreno Longo che è l'allenatore della primavera, quello che conta molto è anche di avere dei giocatori che possono essere utili alla prima squadra. Adesso noi abbiamo 3 giocatori nostri convocati dall'Under 21, Barreca, Parisini e Aramu, e insomma, speriamo che tra loro e gli altri dati in prestito in lì che qualcuno possa diventare giocatore da Toro. Quindi uno, puntare sul settore giovanile; 2, continuare con lo scouting all'estero che abbiamo fatto e molto bene in questi anni; 3, cercare di fare possibilmente qualche passo avanti ulteriore, sapendo però che purtroppo l'elemento economico nel calcio oggi è diventato predominante. E vi dico una cosa: negli anni 80, prima che arrivassero i diritti televisivi, che io peraltro apprezzo e ci mancherebbe, non disdegno affatto, però prima che arrivassero i diritti TV, vinsero il campionato negli anni 80 il Verona, la Roma, il Napoli 2 volte e la Sampdoria. Quindi 5 su 10 che non l'hanno più vinto negli ultimi anni, e negli ultimi 14 anni invece l'hanno vinto soltanto il Milan, l'Inter e la Juve. Cioè i diritti TV hanno totalmente stravolto quello che è il sistema calcio. Il Torino fattura 60 milioni di gestione caratteristica, a parte le plusvalenze, rispetto a una Juventus che ha 350 milioni. Quindi se tu fatturi un sesto per fare esattamente la stessa cosa, non è proprio così facile poter competere per il primato, o anche soltanto un quarto rispetto al Milan o un terzo rispetto all'Inter o alla Roma. Cioè ci sono delle differenze molto molto importanti. Certo. O si mette mano ai diritti TV ripartendoli in maniera diversa, inventandoci qualcosa, o veramente il Torino deve ambire a fare sempre meglio, magari puntare su una competizione, che ne so, la Coppa Italia, che è una bella competizione, e cercare di fare qualcosa di buono lì, o ritornare magari in Europa, perché no, sarebbe una bella cosa, però non è l'obiettivo che mi pongo oggi. Io preferisco non dire l'obiettivo nostro è lasciamo crescere i giovani, abbiamo tanti giovani che non devono avere pressioni particolari, lasciamoli crescere e poi insomma vedremo a fine giornata di andata, vedremo dove siamo. Certo. Alla fine si fanno i conti, intanto è primo in classifica, hai capito Pierluigi Pardo? Sì, ma la strada è quella inevitabilmente, alla luce proprio di tutto questo, cioè di una differenza di fatturato rispetto alle big, di scelte impopolari e intelligenti, che sono state quelle per le quali magari il Presidente a un certo punto è stato anche criticato, magari anche da noi, anche da parte di una certa stampa, no? Perché magari dietro la cessione di Cerci o dietro la cessione di Mobile si poteva immaginare che ci fosse un ridimensionamento. Questo ridimensionamento non solo non c'è stato, ma dal punto di vista economico rappresenta la linfa per poter durare negli anni. Io credo che la chiave sia stata assolutamente questa. Poi Berinazzo lì ha tutti i numeri e tutti i bilanci, quindi la cessione se lo per confermare. Esempio di Darmian insomma al Manchester United, penso che abbia poi non riesce a valorizzare i giocatori che poi spesso fuori da quel tipo di contesto fanno fatica, vuol dire che c'è qualcosa di speciale nello staff tecnico e forse anche dal punto di vista societario. Sì, anche perché poi vedi che quando vanno via di lì non riescono più a combinare molto. Ieri parlavamo di Immobile che è finito in tribuna addirittura. Beh, però Darmian sta facendo benissimo. E Darmian sì, tanto che Darmian, presidente, io leggo Otamendi 45, leggo questo Martial che hanno pagato sì, 80. 80. Forse si poteva anche chiedere di più, presidente. Più, Se avessi saputo avrei chiesto 10 milioni in più. Bravo, questo lo volevo sentire. Certo. 10 milioni in più. Comunque il diciamo che noi quest'anno abbiamo investito oltre 30 milioni incassandone 18, quindi abbiamo investito molto di più di quanto abbiamo incassato. Perché però c'era l'opportunità di prendere dei giocatori giovani di prospettiva che ci piacevano molto, come Zappacosta, Baselli, Belotti, Acquasteso, eccetera, ed a velare Cazzo in porta, eccetera, che ci hanno fatto fare qualcosa di più, e credo che insomma spero che la cosa alla fine diventi una scelta vincente, perché questi giocatori, se crescono come noi speriamo, possono darci delle soddisfazioni. Presidente, perché... ci sono anche giocatori tenuti, perché poi spesso Bruno Perez, c'è Maximovic, c'è Glick, c'è tutta gente che abbiamo letto, non so quanto siano stati. Benassi stesso, che quando l'abbiamo acquistato poi ci hanno fatto offerte importanti. No, sicuramente Martinez, un giovane venezuelano molto molto bravo, insomma direi bene. Adesso ho letto da qualche parte che da Cairo Bracino mi chiamano Mani di Velluto, quindi braccione. Quando c'è il derby, che cos'è, la decima, undicesima, come arriverete al derby? Sì, una cosa del genere, credo ai primi di novembre. Come sarà la classifica, la decima? Chissà, adesso godiamoci il più 6, dai, tanto più 6 con 8 giornate da giocare si può tenere anche un certo vantaggio. L'ultima cosa, presidente, ma c'è stato nei suoi 10 anni, in questi 10 anni, un acquisto, un giocatore che le ha dato particolarmente soddisfazione, cioè che quando ha preso ha detto è proprio quello che volevo? Direi che guarda, sicuramente Cerchi è stato un giocatore che mi è piaciuto molto. Poi io facevo l'ala destra, insomma lui è alla sinistra e lui è un mancino che gioca a destra, quindi io, come dire, mi rivedevo in quello che non ero stato, quindi Cerci è stato sicuramente un giocatore che mi è molto piaciuto, ha fatto benissimo con noi il primo anno e altrettanto bene il secondo, facendo veramente tanti gol e tanti assist, ma poi insomma tanti altri, spesso Immobile ha fatto benissimo con noi. Però Cerci, diciamo, in qualche modo, perché è stato l'acquisto importante che facemmo al ritorno appunto in Serie A, e su di lui c'era molta aspettativa, poi me ne parlavano benissimo il mister piuttosto che Petrachi, e devo dire si è confermato, e io credo che possa fare molto bene. Chiaramente Cerci ha bisogno di, adesso che al Milan, ha bisogno di avere un po' di spazio, però se non gioca è difficile che possa entrare dalla panchina, no? difficile. O magari potrebbe tornare al Torino, chi lo sa. Grazie presidente. Auguri presidente. Grazie a voi, a presto. Grazie. Tutti convocati. Il 2016 segnerà la fine della crisi? Quello che è certo è che dopo 7 anni il paese è profondamente cambiato. Dai consumi al tempo libero, dai modelli di impresa alle abitudini alimentari, nulla tornerà come prima. Radio 24 vi porta in viaggio nell'Italia che verrà, il venerdì nel GR delle 7 e la domenica nel reportage delle 8:15. Questo weekend, la spesa alimentare consapevole, meno sprechi, più tradizione, di Laura Bettini. Tutti convocati. Centra, cerca lo spazio per calciare, lo fa, c'è una deviazione, occhio a Bassa, il pallone dall'altra parte, Gassi, Albania in vantaggio, al 9° minuto ha segnato Skelsen, Gassi, secondo gol, come all'andata, ci va sempre lui in porta, 1-0. Sul primo palo Memushai, c'è una deviazione, vincente di Berat Cismiti. Lotta con Bassa, che ha la meglio, velocissimo il Rossi, in mezzo c'è Sadiku, una deviazione, Sadiku controlla, Sadiku calcia, la chiude l'Albania, 15 dal 90esimo, Armando Sadiku, 3-0, e Albania a Francia 2016.

però io un brivido lungo la schiena l'ho avuto e voglio sapere se anche lui ha avuto per un attimo paura, ecco, paura di non farcela. Ma ti dico la verità, Pier, alla fine venerdì ho preso veramente una bella botta, perché siamo caduti a 50 all'ora in un tratto dove nessuno si aspettava, perché c'era un po' di vento, quindi ho battuto sia il ginocchio che il fianco destro e proprio nelle ossa, e quindi la sera sì, ho dormito, ma non come gli altri giorni, quindi sabato mattina ero anche un po' teso, mettiamola così, un po' innervosito, anche perché dopo 20 giorni sai che ti devi giocare la vuelta, proprio quella tappa lì, e non sai come il tuo fisico può reagire, anche perché dopo una caduta, insomma, il fisico non si sa bene come reagisce il giorno dopo. Però sono partito con la grinta di sempre, ho fatto fatica i primi chilometri, ma poi dopo diciamo che la grinta, la voglia di fare, la voglia di portare a casa questo risultato, è una grande squadra, mi hanno fatto raggiungere tutto questo, quindi non posso che, sicuramente senza la squadra non avrei fatto questo risultato, quello è poco ma sicuro. Fabio, per finire, c'è già un sogno? C'è già il prossimo sogno? Ma io ti dico, come sono arrivato a Madrid mi sono goduto i momenti, però ieri mi ero già tra virgolette dimenticato di quello che ho fatto e pensavo già ai prossimi obiettivi. Non ho ancora partecipato al tour e magari l'anno prossimo mi piacerebbe prendere il via, però questo sarà una cosa da decidere con la squadra e anche le Olimpiadi, che sono, si disputeranno in un percorso molto duro a Rio e sono adatte alle mie caratteristiche, quindi vedremo. Dai, adesso pensiamo a riposare un po' e poi dalla prossima stagione. E quindi i sogni sono già due. Grazie Fabio, grazie davvero. Torno a dirti grazie. Grazie Fabio Aro. Ivan Basso, buongiorno. Buongiorno a voi. Ciao, non è che ci hai ripensato? Non è che vuoi fare come Michael Jordan, che è andato un anno e mezzo a giocare a baseball, poi è tornato e ha vinto altri 3 titoli? No, è una decisione maturata con molta lucidità e sono convintissimo che è la scelta migliore. Io ho smesso perché sono mancato nell'ultimo periodo, non ero più soddisfatto ovviamente del mio rendimento e ho capito che insomma era giusto prendere questa decisione per il mio bene, nel rispetto ovviamente di quello che è stato tutta la mia carriera, per la mia squadra, per i miei tifosi. Certo. In generale il ciclismo non col ciclismo devi avere un rapporto di lealtà, quindi questo credo che era la cosa giusta da fare. Bravo Ivan. Senti, ma hai qualche, insomma, come ti senti oggi? Cioè, c'è tristezza, c'è sollievo, c'è interesse per quello che capiterà dopo? Mi sento molto bene perché una delle motivazioni era proprio una mancanza di energia anche per fare questo mestiere. Quando ricerchi continuamente la prestazione non arriva, sei continuamente in lotta con te stesso, no? Io avevo bisogno di energia anche per il futuro, per la mia famiglia e per il mio rapporto col ciclismo, quello che io ho in mente di fare nel ciclismo nel prossimo futuro. Ci vuole energia, ci vuole lucidità e ci vuole la capacità di essere freschi per poter prendere le decisioni giuste. Mi sembra tutto molto saggio, e poi chiaramente la vita è la tua e tu soltanto sai quello che devi fare, ma insomma, mi sembra tutto tondo nella decisione. Posso alleggerire sul Milan? Non so se il Milan ti dia un conforto oppure... Ma io sono tifosissimo, sono ovviamente... domenica tra l'altro sono stato allo stadio dopo il Giro di Lombardia e è stata una serata complicata, però cose che capitano, è un po' come per un ciclista quando ha una tappa difficile o una corsa non va come deve andare, lavoreranno bene, sapranno ripartire, la squadra è forte, la squadra si è rinforzata molto, l'allenatore è molto bravo, quindi la società è forte e sei, sono ottimista. Tutti i presupposti per ripartire. Tra l'altro conosci molto bene anche il presidente del Sassuolo, che invece sta avendo un altro campionato. Conosco molto molto bene anche il dottor Squinzi, è un caro amico, amico del ciclismo, amico dello sport, è un uomo di sport, e quindi sono felice da un punto di vista personale, però sono tifoso del Milan e quindi mi auguro che il Milan velocemente si riprenda, e a volte ci vuole poco poi per uscire da una situazione critica, sì, dove non arrivano risultati aspettati, e però come ho detto ci sono tutte le componenti per poter ripartire velocemente, sì, quindi, non quindi è la prima volta che una squadra fatica inizio campionato e poi riesce a rimettersi velocemente sul percorso giusto. L'ultima cosa, Ivan, che piani hai per il futuro, oltre a parlare di tanto in tanto con noi, perché non è che smetti di parlare con noi? No, assolutamente, io stiamo definendo nel dettaglio il mio ruolo all'interno della squadra, sarà un ruolo comunque vicino, molto molto vicino ai corridori, un atleta che corre per tanti anni non deve essere presuntuoso di saper fare cose, io so, sicuramente sono sicuro perlomeno di riuscire a lavorare a stretto contatto con i corridori, di dare un contributo importante per migliorare la loro performance, cercare di mettere nelle condizioni di lavorare meglio e di aiutare insomma la squadra con quelli che sono i miei mezzi, la mia conoscenza e la mia esperienza di tutti questi anni. Quindi l'obiettivo è quello di iniziare con grande umiltà e con un ruolo che parte la definizione del ruolo, quello che conta è poi saper fare le cose. Mi auguro che alla fine il ruolo venga poi definito alla fine dell'anno non all'inizio. Sì, all'inizio. Ci sarà un ruolo, però che conta è saper fare le cose, quindi mi auguro di riuscire a mantenere le aspettative. Te lo do un nome, capitano non giocatore, non corridore, come nel tennis. Capitano non corridore. Grazie, vediamo, Ivan. Vediamo. Bocca al lupo, Ivan. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Ciao.